Vi lascio, un abbraccio a tutti, vai da me. Ehi, eccola, ok. Stai, continua a guardarti la partita. No, comunque c'ha ragione. Molti piratti rompono le scatole e poi le conseguenze le pagano anche gli altri per colpa loro, perché magari uno si innervosisce e rischia di rompere tutto. No, comunque c'ha ragione Claudio, bisogna fare controlli a raffica anche qua a Sassari, perché c'è molta gente che hanno radio senza documentazione, anche senza scontrini, e poi disturbano. Vabbè, il capo, quello c'è sempre stato, ma dico, no, quello che dice Claudio è giusto, guarda, poi parli con uno che le regole le ha sempre rispettate, anche io come Claudio faccio parte di corpi di protezione civile, corpi dell'arma, eccetera, quindi io le regole le ho sempre rispettate e sempre le rispetterò, questo c'è. Il fatto poi di prendermi la patente, io ce l'ho sempre avuto la voglia di prendermela, è che poi tra una cosa e l'altra la vita mi ti allontana, poi ti riavvicina, ci sono altre priorità, è la famiglia, non c'è tempo, devi lavorare, devi fare altre cose, capito? Però l'idea c'è sempre. Sì, ripeto, poi io sono d'accordo, a me guarda, io non ho mai rotto le scatole, chi mi conosce, ma proprio mai messo una portata, anche perché uno non avevo la forza di contrastare nessuno, e poi secondo me non ha senso, c'è una prova di forza inutile, ma comunque, avanti Andrea. Hey, capa, sono d'accordo, anche perché adesso il fatto di non pagare neanche la tassa non ti tutela più neanche sulla 27, capito? È diventata selvaggia se non ci sono controlli, e tra un po' secondo me li faranno proprio perché la gente entra senza avere un minimo di criterio. Ma io ti stai preparando per l'esame tu, ma stai facendo qualche corso o stai studiando da solo? No, sto facendo un corso con dei radioamatori e su Zoom. Applicazione sul cellulare, su Zoom, e ogni giovedì alle 9 ci facciamo lezione. Ah, capo, ma sono radioamatori a livello nazionale o qua locali? No, in poche parole ci sono radioamatori di Cagliari, gente laureata, poi ci sono gente che c'è di Foggia, gente di Bari, tutti quanti radioamatori che ne sanno due strisce. Infatti ogni tanto si danno il turno perché non tutti sanno tutto. C'è questo signore che è un radioamatore, si chiama Emilio, è grande di età e quando parla di radio, ma detto, io non ho mai comprato una radio, ma le ho sempre costruite. Questa si costruisce le radio, questa si costruisce le radio e mi ha detto che quello che costruisce è una cosa da non credere. Papa, bello. Sì, ma sono tutti dell'associazione ARI per caso, oppure sono singole persone? Sì, tutti quanti dei gruppi ARI sono. Era, non ARI, era. C'è questo qua che è uno dell'associazione che comanda di Cagliari, non ti faccio i nomi sennò succede un casino, e in poche parole siamo riusciti tramite lui a fare già la seconda volta il corso, perché la prima volta il corso l'ho fatto e in poche parole non avevano detto che tale giorno potevano un mese. C'erano le lezioni, o magari l'hanno scritto, io non l'ho letto, e quel mese lì l'ho saltato, cioè a ottobre. Ho capito. Vabbè, ma adesso piano. Praticamente maggio e giugno dovresti dare l'esame, no? A occhio e croce. Sì, in poche parole questo che stanno facendo adesso è tramite internet. Però se c'è una cosa da dire, se perdi la linea sei bocciato, perché poi se magari manca la luce oppure ti si disconnette il computer sei bocciato, quello è il brutto. Guarda, anche io sto facendo esami online, io sono dall'altra parte di quelli che esamina, ma non è la stessa cosa, se perdiamo il contatto l'esame non è valido. Quelle lì sono le cose brutte, però una volta che c'hai la patente vai tranquillo che è tutto quanto un altro mondo, perché io frequento con i degli amatori del gruppo della Sassari e ti dico che quando io sono con loro mi sento parlare in radio e tutto quanto un'altra cosa, mi sento diverso da. No, K è bello e alla fine anche con sguscio penso che faremo questa decisione, se non nella prima metà di quest'anno, perché è già tardi, perché sto leggendo appunto sul sito Era di Cagliari che i corsi sono iniziati a gennaio e che finiranno intorno a giugno, magari ne faranno qualcuno nella seconda metà dell'anno, vediamo un po'. No, i corsi sono sempre due all'anno. Sempre due all'anno, tra maggio e giugno, e l'altro era ottobre-novembre, comunque sempre maggio-ottobre. Kappa, ma bisogna iscriversi qui, adesso sono proprio nel sito di Era Cagliari sono, magari prendo qualche contatto con loro e glielo chiedo. Uno di loro di Era Cagliari è quello l'amministratore del gruppo nostro, là, quello che comanda. Ho capito. Sguscio, ho sentito, hai? Se vuoi studiare probabilmente ti rimette adesso. Sì, capo, ho sentito. Volevo dirti, Dani, ti devi iscrivere ovviamente all'ERAC, al corso, eccetera, eccetera. E il corso quanto lo paghi, comprensibile, di accesso all'esame? Non ho capito perché ti sei abbassato molto di radio. Ripeti nuovamente, tocca il microfono, fai come stavi facendo poco fa. Forse ti senti. Ho detto, quanto costa il corso più l'accesso all'esame? Se sei parte dell'associazione non ti costa niente, però controllato su internet sono 80 euro. Kappa, quindi basta che ti iscrivi all'Ari di Sassari e poi ti presenti come Ari. In poche parole sì. Io già per un paio di anni ho fatto così e non ho pagato ancora niente, perché è gratuito questo corso. Però su internet ho letto e ho inviato anche un messaggio al direttore, e mi ha detto che è una cosa legittima, giusta, però se uno non esce promosso, in poche parole ci sta buttando i soldi, quello. Vabbè, capo. Anche io quando ho fatto l'esame per diventare pilota istruttore di droni, se ho pagato un botto di soldi, se poi mi bocciavano li perdevo, quello sì. No, perché io ho diversi amici all'area di Sassari che sono stati anche miei colleghi dell'università e avevo preso contatti a sua volta e adesso li ricontattiamo, Andrea, e vediamo un pochettino. Mi volevano dare i libri da studiare, adesso vediamo, dai. Ti hai preso la patente per i droni? Kappa, io sono pilota e istruttore di droni. Pilota e istruttore, quindi conosci un qualcuno che lavora all'aeroporto? No, io parlo di droni, non di droni militari, parlo di droni utilizzati a ricerca e soccorso, ispezioni, i quadricotteri, gli UAS praticamente. Sì, già ti ho capito, però sei tu che non hai capito quella domanda mia, non ti voglio fare il nome. Uno che lavora all'aeroporto, che ci ha preso la patente droni da poco. No, anche perché io l'ho presa fuori e non lavoro nelle scuole di volo, qui in provincia di Sassari. Faccio formazione, faccio interventi e faccio parte di una squadra della NC Carabinieri di ricerca e soccorso persone. Ah, no, perché anche nel nostro gruppo radioamatori qualcuno c'ha la patente dei droni sono quelli che lavorano nell'aeroporto e uno che è un carabiniere e si stanno divertendo forte loro con i droni e poi vogliono buttarci anche a noi a prenderci questa patente, no? Kappa, forse allora a quelli lì gliel'ho fatto io il corso a Cagliari, perché io da poco sono stato al campo volo a Siliqua, dove ho formato tre dell'NC Carabinieri più altri della Misericordia, che poi si hanno preso le patenti e gli attestati proprio per intervenire come associazione. E il corso gliel'ho fatto io lì. Probabile magari che li conosca pure, dai. Buongiorno, sono gente dell'associazione Gruppo ERA, che era Sassari, che gente veramente in gamba, che fanno molto ridere quando iniziano a fare i discorsi. Beh, K. Boh, magari li conosco, dai, a prescindere da questa cosa di droga. Va bene. Ok ragazzi, dai, devo smontare la testa a uno dei due figli e poi dopo che gliela rimonto magari ci sentiamo per i saluti. Dai, chiudo un attimo e rimango in bianco che devo sistemare un po' di roba. Avanti Andrea, ci sentiamo più tardi. Se no alle prossimine ragazzi, se non rientro perché me l'hanno impedito. K sguscio, o a più tardi o al massimo a domani. Sì, no, è bello questa roba dei radioamatori, poi per chi piace l'elettronica e anche la propagazione è veramente bello. E poi in Italia c'è una tradizione a cui ci si tiene molto, dai. Sì, il fatto è che neanche l'elettricista sa tante cose che sa l'elettrotecnico, che sono completamente due cose molto diverse. Cavolo, sono d'accordo con te. L'elettrotecnico secondo me è una via di mezzo tra l'elettronico puro e quello che fa impiantistica, perché c'è tutto il discorso della propagazione, dei disturbi elettromagnetici e anche degli amplificatori, dei filtri. E soprattutto i filtri, quelli che non mi entrano in testa a me, perché i filtri sono talmente complicati che non riesco a starli dietro quando mi parla, si spiega soprattutto, si spiega come funzionano esattamente. I filtri attivi, passivi, LC, LCR, cose di questo tipo. Io capisco un po' di elettronica, ma non ho ancora visto i programmi per radioamatori, giusto per capire di cosa stanno parlando. No, se tu guardi, non mi ricordo come si chiama quel sito, comunque su internet c'è un sito di radioamatori che in poche parole parlano solamente di elettrotecnica, e su questa elettrotecnica poi fai una parola cerca, vai su filtri e ti dice tutto quello che devi sapere sui filtri. Solo che non mi entra in testa a me, c'ho anche il libro io e non riesco a capirlo, quello è. Ma fai le lezioni però, qualche cosa gliela chiedi. Sì, qualcosina già l'ho riuscita a capire, però non al 100%. Infatti se a me mi dovessero mettere una domanda sui filtri, quella lì è già sbagliata, perché non sono ancora preparato sui filtri. I filtri sono secondo me anche la parte più complicata, perché quando lavori in corrente alternata soprattutto le risonanze, i filtri e anche i componenti elettronici come i condensatori o le induttanze, gli induttori che alla fine amplificano o attenuano alcune risonanze, tutta quella roba lì è molto complessa e in parte è anche empirica, cioè con i calcoli ci puoi arrivare, ma poi c'è sempre una taratura che considera i materiali, le caratteristiche dei materiali e dei componenti soprattutto, ed è molto particolare. Sì, infatti la prima cosa da guardare è i componenti e il materiale che ci stai mettendo in mezzo, quello sì. Ma sono cose belle però, cioè, vabbè, io non ho studiato da un punto di vista della scuola o dell'università queste cose, ho studiato altre cose, però poi mi sono letto un sacco di libri per passione. Io in realtà sviluppo elettronica, però elettronica, microamplificatori, roba piccolina, capito? Per piccolissimi segnali, lo faccio anche per lavoro, però queste cose alla fine sui componenti sono abbastanza di base, dai. Comunque a me se mi dai qualcosa da sistemare in elettronica, ti so sistemare quasi tutto, ti so fare un impianto e varie, però a studiarlo, a dirtelo a voce, non riesco a spiegartelo bene, come quando ci metto le mani, da. Ti capisco benissimo, perché anch'io sono così, è quella la differenza tra chi fa la scuola e chi invece lo impara anche sul campo. Ma tu elettronica o elettrotecnica, cioè della serie amplificatori, circuiti elettronici, cose di questo tipo, elettronica analogica? In poche parole elettrotecnica, no? K, quindi riesci a fare, come si chiama, la diagnosi dei guasti, capire un componente che non funziona, cose di questo tipo qua. Sì, qualche scheda già me la sono sistemata e anche ricostruita, però facciamo, sta ancora andando, quello. Sì, vabbè, ma lì è solo questione di tempo. Alla fine io non penso che devi sapere le cose proprio nel dettaglio, a meno che non trovi qualcuno fissato tra gli esaminatori. L'importante è però sapere il principio e anche come funziona, quali sono le nozioni di base, per esempio dei filtri o anche degli amplificatori, come funzionano gli elementi di amplificazione, che una volta erano le valvole, poi i transistor, adesso sono sempre più gli integrati, no, ma il principio sono sempre gli stessi. Dai transistor, in poche parole, devi capire anche quale stai usando, sapere i codici di cosa stai c'hai in mano, di quello che c'è in mano, in poche parole. La stessa cosa dei circuiti stampati. E tutto quanto è sapere cosa c'è in mano. Poi piano piano, ovviamente tramite le formule, riesci a costruirti quello che ti serve. No, io non ho ancora capito il livello di approfondimento che ho richiesto, perché dipende sempre, se non penso che sia a livello di ingegneria elettronica, però allo stesso tempo è un livello, secondo me, sicuramente da scuole, da perito industriale, da occhio. Sì, sì, è roba da perito industriale quella lì. E poi l'elettronica che viene tutta quanta aggiornata tramite le... posso dire, lasciami bene il nome, comunque è un'elettronica tutta quanto riaggiornata. Cioè parti dai principi di base e poi chiaramente arrivi sino alle ultime soluzioni da un punto di vista della tecnologia. Perché nel corso, in poche parole, incominci già con la legge di Ohm, che è la legge che dovresti sapere per prima cosa, fino a finire che finisci con i filtri. L'ultima cosa che ti insegnano è i filtri. Solo che io con i filtri non ci vado tanto d'accordo, quello è. Sì, quelli sono sicuramente sulla parte anche più difficile, penso, anche nei programmi delle industriali. Un mio amico mi aveva regalato i testi di elettronica delle scuole industriali, ne sono visti una decina di anni fa, e comunque non sono mica semplici, ti mettono a fare calcoli, dipende sempre dal livello a cui vuoi arrivare. Sì, quello sì. Comunque anche online su YouTube ci sono dei bellissimi video che spiegano i filtri, dei bellissimi video. C'è una tipo, una professoressa industriale che fa delle lezioni chiarissime su tutta l'elettronica, ma anche e soprattutto sui filtri. Ti conviene, se hai la possibilità, di dargli anche uno sguardo, perché si capisce bene. Su YouTube? Su YouTube. Aspetta a vedere chi è questa qua, aspetta se riesco a trovarti il nome di questa professoressa che insegna. Quindi è una donna questa signora? K positivo, una donna. Non è che c'è scritto dottoressa, aspetta, dottoressa, oggi non mi viene il cognome, dottoressa per caso, come inizio, del nome? Non so, sto cercando nei miei canali dove sono iscritto, perché mi sono visto un po' di lezioni qualche mese fa, però non so se inizi con dottoressa, adesso se te la trovo ti dico il nome, così vedi se riesci a trovare qualcosa di interessante, no, perché spiega in modo chiaro, Ok, cerca, non ti preoccupare. Dai, adesso io chiudo. Tu continua a cercare quel nome, lo scrivi e poi domani, tanto domani sicuramente entra in radio, e mi fai sapere, dai. Guarda, lo sto trovando, perché ero sicuro, però siccome sono iscritto al canale, te lo trovo sicuramente. Adesso devo vedere tutti i canali a uno a uno, perché non ce l'ho proprio definito. Te lo faccio sapere, domani. Ok, dai, ci sentiamo domani, ciao. Danilo. Sì, dimmi. Ah? L'ho trovato, se vuoi te lo puoi segnare. Aspetta un attimino che prendo la pella. Ok, vai. Elisabetta Vannucchi. Vannucchi? K, Vannucchi, doppia C-H-I. Ha un sacco di video dove parte dall'inizio e ti fa tutto dall'elettrotecnica. Adesso non so se ci siano i filtri, però probabilmente sì. Prova a dargli uno sguardo. Ok, perfetto. Allora, dopo gli do uno sguardo. Tanto tempo già ne abbiamo domenica. Ok, dai, già adesso chiudo che vado a mangiare. Dai, ci sentiamo domani, se accendo la radio. sì sì, dai. Alle prossime, ciao. Ciao K, buona serata, alle prossime, ciao Danilo. E grazie del QSO. Altrettanto. Dimmi! E da qua mi ascolti? Eia! Un po' più in basso, dai. 9.30 mi stai arrivando. Andare, con la Grand Prix sono, Con la Grand Prix? Allora. Va bene, volevo sapere se mi ascoltavi da qua, che sono nel container. Ma quale? Quella che ti ho dato io? Eia! 9.30 mi arrivi, è bello forte. È una radio bella forte, lo stesso, senza problemi. Radio 5. Vabbè, dai, aiutato però, eh. Magari un pochino di radio in più li potresti dare, no? Aspetta un attimino. Guarda così, 1, 2, 3, ha migliorato. Sì, di radio sì, il segnale è sempre uguale, è meglio così. No, di radio hai migliorato, sei più forte. Andare, va bene, dai, ciao, divertitela. Ok, Tino, alla prossima, ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao. Ciao Danilo, ciao Tino, buona serata. Ciao anche a te, ciao a tutti, dai. Dai, ti sentiamo dopo, dammi 10 minuti. pagare io, va bene, adesso ci me lo regoli bene, perché così lo lascio, sono un casino, va bene. A dopo, già ti chiamo io. E io già sono qua, c'è problema. Allora, 1, 2, 3, prova radio, prova, 1, 2, 3, prova. Non riesco così a capire se va bene o va male. Dalla Fiorentina con picchi positivi quasi a 9.20, quasi a 9.20, quindi fai da 9.15 a 9.20, quando tu sei alzato di 10, di 20 fatti in più, hai fatto quasi 9.20 sempre, però senza picchi positivi, quindi io ti consiglio di lasciarli, se lo vai a 30, poi fai tu, da 30 tocchi sempre il picco massimo. Quindi così ti ecco qua, così praticamente non ho picchi da molti picchi. No, così si stabile, ma tieni presente che già lo sai che radio io, quindi il lume è buono, non è fisso, al contrario di quando metti 30 watt che vai a sbattere quasi a 9.20. Ma se così è stabile a 9.20 lo lasciamo così, eh? 30 watt, ok. No, devi abbassare ancora, perché sei sempre stabile. Ah, vuoi picco di modulazione, tu? Ecco qua. Guarda a me se così c'è appena il picco di modulazione. Ora sì, ora va bene. Tanto una pacchetta, non ti credo che sia... Fai da una pacchetta e poi sbatti a quasi 9.20. Aumenti della pacchetta. Con i picchi di modulazione. E io lo lasciamo così, quindi devo andare sul più. Ecco qua. Però l'importante è che mi è arrivato la radio, perché ho mandato le voppie in cuffie con il trattore, è un casino, non fa, capito? Mentre invece se c'è un corrispondente così come te, che conosce più o meno la mia timbrica, sa come devo regolare, va bene. Per me va bene, magari aspetta ti ascolto l'altro, ma credo che non cambi, che adesso magari ci sono alcuni baracchini che la radio ti dicono magari che non sei comprensibile, ma per me è ottimale. E ti amo di quello che dicono i baracchini, non è che c'entro molto io, quindi non è che mi interessi più di tanto. Che abbia fatto questa regolazione con una radio professionale, poi se c'hanno un baracchini con l'ottoparlante di Peppino Pioli io non ci posso fare niente. Ora stai collegando altro qualche altro radio. Allora ti ho ascoltato con il 5.5 ed è bella la radio. Dopodiché ti ho ascoltato con Lincoln, è ancora meglio. Allora signor campione, tanto nel Sassari più o meno tutti hanno quella radio lì, quindi già va bene. Ultimo Dino va benissimo, alla grande, è così ogni tanto magari quando faccio due chiacchiere posso usare anche questa la radio, se no tocca stare sempre col capo, questa è sempre spenta. Eia, mi senti con questa? Sì, non c'è problema. Com'è la modulazione di questa? Questo è il Lincoln, eh? Va bene, va bene. L'ultimo per la truppa. Questo è il microfono che mi ha dato tu, mi dici. È standard. Quelli sono ottimi microfoni, vanno molto molto bene. Mi pare che ho trovato anche un altro dentro l'armadio di quel simile a quello. Adesso non mi ricordo, devo controllare. C'hanno le capsule micidiali, vanno molto bene. Vabbè, questo adesso sta lavorando con sui watt naturali, quindi non so quanto stia arrivando. Vabbè, il microfono palmare lo conosci benissimo. E niente, basta. Questo è il Lincoln da battaglia. Guarda, su questo Yesio, sì, se no, è abbastanza preciso. È anche abbastanza preciso. Se Santiago offre Radio 5 non c'è problema. Vabbè, questo è l'altro, lo sai, c'è differenza? Sì, 9 più 20, Radio 5. Va bene, non so se vuoi accordarti, la tassa era accesa. Sì, 9.20 con picchi quasi 9.30, fate il conto. Aspetta che provo a fare un accordo, se va. Ecco qua. Dovrebbe dovrebbe essere accordato alla, alla meglio, eh? Forse questo è il segnale più alto che avevo qua con questa radio. 9.25 con picchi a 9.30. Quindi si è salito di più 5. Va bene, va bene. E mi è entrato il demolition a fare casino qua. Vai, cucciato, vai, esce. Un bisogno, un vitello. Come detto un vitello. Vabbè, quelli vengono grandi, non è che rimangano cagnolini, no? Va bene, muscolo, se ci sei ci sentiamo dopo, che devo andare a cenare, perché mi hanno già chiamato. Sono già, non me ne ho manco accorto, no, come ho 20. Lascio tutto acceso qua, ok? Andare, a dopo, vai, ciao, ciao, buona carica. Grazie a te, dai, ci aggiorniamo dopo. Va bene, ciao, ciao.